potrei star meglio, ma pazienza. Ehi dai, piano piano ci si riprende, dai, auguroni. Questa è l'IU, ve la presento. Aspetta, ciao anche a te, Capri 2, auguroni anche a te, dai. Avanti, Liu, dai, devo entrare a te, tieni 5 minuti, dai. Ma chi, io ho già nei Capri 2. No, Liu ho detto. No, ma lei adesso sta seguendo la TV, no? Non entra qua, capito? Ah, va bene, dai, dai. Interessante che avevi fatto i saluti, la buona visione. Andavè, riprendi Marco. Marco, comunque se vedi che me lo riprendo io con l'apparecchio. Butto, butto. Ma guardi che per me che sto scherzando. Ma bene funziona. Guarda, la KP23 ce l'ho, il base ce l'ho, ma il CM90 non mi serve, tieni. Allora a me KP2. E la KP23 lo vuoi tu, Gianni? No, il CM80. Sì, ma lui vuole un base e una KP23. Tu ce l'hai un base di 23 canali antico e una KP23, ce li hai? La KP23 no, il base sì. Antico? Antico, il numero due ambo. Allora fai l'affare, fai l'affare. Ancora Walter c'è, mamma mia. Chiedo una mano a Walter, chiama la dame. Lui e i baracchini che piacevano a me, l'hai in quinto, quello 200 canali e addirittura l'altro, come si chiama, l'LMS 200. Ma che ce n'è uno sui media LMS 200, però l'hanno pasticciato, l'hanno messo con la carta che usano gli americani che sembra legno. Che pastori che sono, potevano lasciare l'originale, boh. Sì, si può sempre studiare, quella lì, quella lì. Tanto il colore sicuramente è brutto, a me non piace il colore, solo il colore non mi piace nell'LMS 200, per il resto mi piace tutto. Il colore, il marrone lo odio. Lo so, però già nasce con quel colore, è una caratteristica anche di quell'apparato, proprio diverso dagli altri. Tutti sono neri e quello era marrone. Un po' bruttino, ma è così. E poi una spruzzatina già va bene, di vero? Sì, si è fatto bene, sì già. Poi, vabbè, qualcuno fa bomboletta, ma poi vedi le collature, no, le gocce. Si è fatto bene, è perfetto. Come gocce non le vedi, manca bombolette. Io ne ho fatto mille bombolette e gocce non le faccio. E la sapevo che mi dice. Oh, poi qualcuno, se non sbaglio, l'ha pitturato, aspetta, l'ha pitturato anche a pennello, proprio roba da cani, a pennello, che vedi, e strisce il pennello, sembra quello di Leoncino che stava vendendo. Io ho detto, ma vediamolo, magari è un apparecchio che magari vale anche 40 euro, lo vediamo. Ho visto, aveva questo coperchio tutto fatto a pennello, a secchiate, non ho capito come fosse fatto. Vabbè, comunque basta portarlo a zero, quello lì, basta prendere una mola. E ne voleva, mi pare, 50 o 60 euro. E gli ho detto, per quello, no, no, no, per quello ti do 5 euro, ti do, perché me lo devo pure pitturare. Allora, è una marca sconosciuta, 40 canali AM, però marca sconosciuta, mai vista, mai sentita. Ah, 40 sono più passanti, li dà 34 canali, anche se sono belli certi, dipende se è un modello raro. A me piacevano gli Elbex, mi piacevano gli Zodiac, tutti quegli anni là, capito? Copiato già? Sì, li ho copiato, sì. E lo so che ci piacevano qui. Quegli apparati, tutti quelli che nominate erano belli, avevano anche i monopoloni belli, come piacevano a me. E c'erano tanti belli. Io l'ho avuto 120 canali, anche in quinto, e lo usavo con l'MB, ma il Starner è più 2, con quello lì andava molto bene. Per dire, no, mentre noi nell'81 avevamo quello schifo di Intec M340, non so se hai riconosciuto, quell'aborto di baracchino, in Svizzera, in Inghilterra e in altri paesi avevano apparati a 900 MHz, ma a parte la frequenza, erano apparati avanzatissimi per l'epoca, canali in memoria, scanner, toni di chiamata, tipo il tono identificativo, mi non so come dirtelo qual è, avanzatissimi erano già. Il cicalino, dai, come lo chiamate? Già lo so, noi siamo retrogradi, allora prima o poi avevo l'FM500S, il 430 l'ho avuto, però usciva bene quel baracchino, c'era stato lo schifo una scatoletta, però usciva bene. Ma il 500S? No, anche il 430. No, 340, l'M340, io l'avevo visto se da chi, da Davide, in macchina sua, ma era atroce, era mi pare 34 canali, solo AM, un watt e mezzo, capito? Poi è uscito il modello di lusso che era un watt e mezzo, però AM FM, ma era brutto anche l'estetica. Io ho avuto Polman, ne ho avuto pochi di baracchini. Se avessi avuto i soldi di tutti i baracchini che ho comprato sarei stato non ricco, ma avrei avuto un bel po' di dinamica. Ok, io sono il baracchino col cittadino svizzero, non ha fatto tutti i soldi, il cittadino so. Perché è la marca. Non so perché col cittadino, non ho le zecca, se ne ho due, mobilizzate, sparano 10 watt di colpo. Beh, regalo per Natale, non lo fa. No, veramente, poi ti vedo entrato in possesso tramite un collega che era nei carabinieri di Pordenone, ne ho due nuovi, siamo chiusi, e poi ne ho un terzo che vuole essere accolto, che me l'ha fatto di 91, ma l'ho detto accolto perché battere, cioè ci carino questa roba, e c'è anche di una luce rossa, Somercanti S624S. C'era anche il toccare, ci carino. Cosa mi dai per la KB23 quindi? Niente, mi devo fidare, non so via che quello l'ho già stabilito, prima di dirmelo tu, ci stavo già pensando, mi devo fidare, non so via che è la KB23. parliamone. Ok, no, io questo lo uso perché se no mi sgridi, Claudio stava ascoltando, sapeva che il VHS di sera mi stava ascoltando, posso fare quello che voglio, però non li uso, hai capito? Se io questo non lo uso, tu mi sgridi. E se lo rovina, è inutile che uno si compra una cosa per rovinarla, capito? A quel punto lì, se non ti serve più, te lo vendi o lo scambi con qualcosa, capito? Io sai perché non te lo do via che la KB23, perché ti sto prendendo per il culo, e a me non mi va di prendere per il culo la gente, capito? Quindi non è un'operazione da fare, non sono abituati a prendere per il culo nessuno. Quella radio c'ha un valore e va pagata in base al valore che ha, poi tutto il resto per me rimangono, capito? Ognuno può pensare come vuole, io non sono abituato a prendere per il culo nessuno. Quella radio ha un valore e in base al valore che ha si quantifica o si scambia in base a quel valore oppure si paga i soldi, punto. Io la penso così, poi già te l'ho detto, non ne ho problemi io. Ok, tu sei una persona ferocia, capito, molto forte, lo sai, ma ci dice là, è una capacità che faremo passare qui, però quello registrato, c'è molto. E molto abbiamo fatto degli scambi, capito, come a perderci, però c'è un pezzo adesso di morto io, hai capito, con il Ducati 98, che ce ne sono questi esemplari, di quella che avevo scambiato, ho detto qui dappertutto i mercati, di tutti sono le radio qua. No, io ce l'ho l'HB23, lo sai là che ho controllato l'HB23, trasformatore di modulazione buono, binari sono buoni, e capito, non è l'uccessione, non fa, non si capisce cosa c'è successo, vabbè che la fermo. No, ce l'ho l'HB23, l'originale, capito. Un attimo, ciao Capri 3. Uscendo sopra. Sì, perfetto, che microfono hai messo? No, sto usando un toccaio, 50-24, con i microfoni con la rotellina sopra, con i microfoni neri. Ah, quindi ho capito, già te ne vanno bene. Guarda Capri, io ne avevo due, uno l'ho regalato a col Salerda, aggiungo l'ollaro perché mi ha fatto un sacco di cortesie, non ha mai voluto soldi e quindi le è piaciuto e le ho regalato, nuovissimo, l'impacca è funzionante perfettamente, qualche volta lo attacca, e l'altro ce l'ho io perché ne avevo due dei HB23, ne ho anche uno, un Sears SSB americano, mi ha regalato l'altro, ancora non si tocca perché sennò prendo colpi, ma non me la sento, ho capito, cioè è più forte di me, non ti posso dare io un Zodiac base B5024, l'uovo di pacca, funzionante perfettamente, tutto in uso, perché io ce l'ho qua davanti, lo uso spesso per fare così delle prove vintage, e darti un HB23, cioè il valore dell'operazione 100 euro, ah, per cortesia, oh Gianni, dai, fatti grande, che sia un uomo grande, quella radio, ti ho detto, ha un valore quantificabile, te l'ho già detto, no, perlomeno, io sono fatto così, quindi non me la sento di darti due stronzate, che se ti servono viene, te li prende, te li regalo e ti tieni anche la radio, il cazzo me la frega a me. Come si chiama, la procura, quando mi è sentito l'allarma, se no ero stato alla procura di dire cosa vuole, non è il voglio io di come si chiama, io ho avuto dei grossi problemi con l'arma, e non voglio, non sono un messino, capite, quindi a regalo non voglio niente, io quando una cosa la do, tu lo sai che la do di cuore, non mi da tutti, ci ripeto, riparando, capito? Vabbè, tu sei troppo buono, io non mi va di approfittare, vabbè, fate girare, io sono qua che vi sto ascoltando, ci dovrebbe essere anche Walter qua. Ok, avanti Gianni, doppio numero, ripeti. Gianni. Scusate, perché ho il tuo microfono interno. Ah, fancuffia. Vabbè, dai. No, ha ragione Claudio, dai. No, non puoi fare scambi del genere. Deve esserci un pari valore. Oppure i soldi. Andare. Non gli piace la capire, io l'ho capito, che a parte non gli piace. Io capisco, non è che non le piace, uno quando si compra una cosa è perché le piace, è che lui non la usa, è appassionato dei baracchini, anche io ce li ho i baracchini, li ho tolti, ho lasciato il dacchi proprio con Zodiac che sopra 50-24, che sono due basi a 220, in modo che non ho problemi di alimentazione, e gli altri li ho messi tutti dentro l'armadio, ma la cosa è così, vedi Walter, Walter ne ha un mare, una casa piena, ogni tanto ne prende uno, lo prova, lo attacca, lo fa, anche lui se ne ha messo uno in sala radio, giusto per fare due chiacchiere, eccetera, eccetera. No, HF, un HF, Gianni Capri 2, cioè, cosa ti devo dire? No, non posso sentire queste cose, capito? Non sono abituati a fare queste cose. Se c'è un pari valore, ben volentieri, un pari valore di quella radio, posso anche chiudere gli occhi io perché l'ho pagata praticamente poco, l'ho pagata 250 euro, ecco, te lo posso dire, ecco, 250 euro il DAC. Aggiungendoti un'altra cosa, siamo già di pari valore, ma il DAC non lo posso dare perché anche lì è una cosa che ho preso per usarla e perché mi piace, anche perché sono pochi esemplari e non va. Però non puoi scambiare un Zodiac 50-24 che vale 50 euro con un HB23 che ne vale altri 50 euro, dai Gianni, non va bene così. Ho capito. bravissima persona, ma io non me la sento di fare uno scambio del genere. Poi chi se la sente lo faccia e se ne assume le proprie responsabilità, a me non mi interessa. Aio, chi mi dà una KB23 gli do questo. Se vuoi toccare ce l'ho. Ok, va bene. Non bella la faccia cadetta te la do. Se ne toccai vengo ti batto già, e guai. Mamma mia, cacante, non vuole capire, no, ma poi non lo darei mai perché quello è un regalo, Non mi piace dare i regali, quello lì è un regalo e ci tengo ad averlo. Oh, Capri, sai quanto mi hanno offerto per il trasmettitore, cioè per il ricevitore, perché io ce l'ho un doppio adesso, no, lo sai, ce l'ho un doppio, perché proprio dallo spunto tuo, dal ricevitore della Recraft, io tramite il sito della Recraft ho trovato la linea completa della Recraft, quindi adesso ho tutta la linea completa, più un ricevitore in più. C'è uno in continente, un radioattore continentale, che c'ha il trasmettitore come l'ho messo io, no, però non c'ha il ricevitore. Mi ha offerto un HF intero, gli ho detto non te lo do, non è quantificabile il prezzo di quella radio, perché è un regalo di un CB del mio paese, della mia città. Ho detto non te la posso fare, punto. E non si discute, non ce n'è. L'altro giorno mi ha mandato un'email, ma dai, ti mando un HF, ti mando quel, no, ti ni do, bu, no, niente do. Sostituire da 3 kW a 4 kW perché bastava accendere qualche radio in saltava sempre il contattore. Sono dovuto passare per forza, ho chiamato l'Enere e mi hanno messo il contattore nuovo. E guarda, lo stai provando adesso. Rimango il QRX qua che sto parlando con voi. Ci sentiamo ragazzi, quando stanno tutti cenando. A dopo. Ciao Flash, sentiamo, ciao. Grazie, riprendi. Perché già mi avessi saltato la luce. Sì, anche qui, aspettato, ma quanto tempo che sono strane cose. Ascoltiamo un uomo che ti ha fatto cose che non va bene la coperta. Ogni tanto mi sono andato a controllare. Resistente il trame che metto qui mi pigliavo un grurito e no, ma poi gliela spegniamo qua, perché la salta è presa, capito? Poi che andiamo a letto gliela spegniamo, ma non vedi che c'è qualche cosa che non va da sé, perché è scarso il contattore di nuovo. Controlla, già ti telefono domani, eh? Ok, ok, claro, ci sentiamo, buona, ciao ciao già. Claudio, abbiamo fatto quelle i titoli che stavano con base, e cioè in ascolto anzi. Ok, già mi tocca e non lo stai usando già quindi. Sì, ogni tanto lo attacco, lo uso spesso, dai, non ce l'ho in stazione, ce l'ho da un'altra parte, ogni tanto lo attacco e lo faccio andare. Allora io ho questo che funzionasse, poi c'è un altro che voglio mettere a posto, e quattro ne ho in tutto, però voglio un altro che voglio mettere a posto già, e voglio superarsi così, che poi è un nuovo nuovo. Ma questo qui cos'è? Insomma, il capo? No, questo è il capo che ho usato già. Questo qui è la modulazione migliore che hai. Io lo credo, già. È un po' fate come si chiama stessa. Non già, togliamo una curiosità, qualcuno che dove c'è scritto delay dietro con la serve. Delay, cosa è capo è quella roba? Non ho toccato però, non so neanche cosa sia. Dietro. Dovrebbe essere, cos'è, un timer? È un coso, è tipo un volume. E non lo toccare, non lo so, dico la verità. Di lei dovrebbe essere il volume, il coso del volume. Ma non lo so, bisogna chiedere a chi l'ha usato, quella perché non l'ho mai avuto. È uguale a 140, è il sensore del box. Ah, perché c'è il box questo qua? Certo, non leggi lì davanti ai display, c'è scritto Vox. Tu metti Vox e poi ti regoli la sensibilità del BDT, delay. Ok, però io sono Luido. Vox non lo sto leggendo qui, non lo sto leggendo qui Vox. Allora vedo Lock, MU, MN, UFOM, Scarsi, e del punto delay forse, sì. Con la cura quello lì è. No, va avanti a frontalina, non dietro. Ok, no, qui davanti a frontalina non lo vedo box. Non c'è scritto box, non lo vedo da sua parte. UFO c'è scritto M. Non lo vedo box, non lo vedo. Te la metto, la faccio vedere io. Là c'è scritto Gianni, controlla, adesso non ce l'ho qua davanti, no, manco 140 più, ma già c'è scritto, c'è un tastino dove c'è scritto Vox, tu inserisci quello e poi dai dal delay praticamente regoli la sensibilità del PDT. Eppure io qui non vedo tutti gli altri sotto, send, rec, processore, ANC, PWR, app, infatti da ROM, RFA, no, io non lo vedo qui, proprio lo seguo. Sopra il coperchio, sopra lo smitter. Non è a questo, non qua. Il 440 ce l'ha, ma questo non è altro che il coperchio di nulla. No, cos'è? Senza un box C80, no, già ce l'ha. Ma sai, già ti ho capito già, poi che ho qui alla parte destra c'è scritto, allora, semi, off e full, doppio, cioè però qui sopra il coperchio non c'è, ricordo che l'avrebbe il 440, questo non è altro. sarà sopra il coperchio, c'è il tastino a fianco al send, c'è scritto Vox, e poi sopra come 440 c'è la regolazione, c'è una finestrella con la regolazione 430 simile a 440. Cos'è che mi viene il dubbio? Non c'è manco il computer acceso, non lo so. No, ma già c'era, se c'è il delay dietro, davanti deve avere qualche tastino, boh, meno che non ce l'abbia dietro il tastino del box, non me lo ricordo, sì, 80 l'ho avuto, ma no, boh, è un 440, mi sembra strano. Ma c'è 80 come fabbricazione, cioè dopo del 440 sì. No, ho preso al 140. Ah, quindi era la via di mezzo. Ah, cosa già? Ho detto era la via di mezzo, tra 140 e 440, così. No, no, la 440, il 70 è gemello del 140, tu li metti a fianco, sono uguali, precisi identici. Il 70 c'è la scheda dei simmetri, anziché fare 0,30 fa 0,50, finito. Ah, ecco, basta. Sono precisi identici. Uguali, precisi identici, in più il 680 dal 140 c'è altro amplificatore d'antenna. Dov'è? Sì, vabbè, qui un prezzo è quello là. C'è la scheda di 6 metri in più, ci sono sempre 100 euro in più per me, calcolati sempre per me, per come compro io e come valuto io. Poi si può vendere 350, ma a 300 euro non si è 80 regalato rispetto al 140. Marco Condor. Ehi, volevo chiedere a Claudio, te l'avevo già chiesto, l'anno di uscita del 140, mi confermi, ma avevi detto il 94 mi pare, no? No, prima, il 94 è uscito il 430. Cioè perché ho visto dei cataloghi vecchi di CQ elettronica, per esempio nel 90 non esisteva il 140, in uno del 94 che ho trovato c'era il 140, quindi immagino tra il 90 e il 94, no? Sì, mi pare sia uscito nel 92, fine 92, perché nel 94 è uscito il 430. Ok, allora è un vintage anche questo, da, ha passato i 20. Sì, tutti sono vintage, anche il 440 è un vintage, 430, 140, 680, 440, sono tutti vintage. Va bene, va bene, mi sto misurando la temperatura, continuate. Dietro metà le gambe, va bene. Sì, o dietro anche. Vedi se c'è temperatura buona. Quello è già, è sempre in temperatura, Bravo, bravo, quante sorti dal tuo amico, l'avevo visto stamattina. Come Claudio? Tanti saluti dal tuo amico che l'ho visto stamattina. A me mi ha chiamato ieri, era con quell'attore di Romanzo Criminale, gli ha fatto la guardia del corpo. Io lo so, c'era un concorso con Dante Mezzanotte, e anche quello di Zeri che c'era. Ha detto ammazza le voci, la guardia del corpo. Sì, lo so, scusate che c'ho quaderno in casa, per mamma è scatenata. Cosa stavo dicendo? Mi ha detto che è molto umile come attore, io credo fosse un tipo magari arrogante di quelli, no, ma c'è tranquillissimo, proprio pezzo di pane. Oh, no, bravissima persona, lui è, sai che la madre di quello lì è Cagliarità. Me l'ha detto, Maureddina, ho detto. Dici Cagliarità. Quello lui è molto amato della Sardegna, non ci sono problemi. Ok, Gianni, riprendi. Gava, che attore c'era? Quello che ha fatto... squadra antimafia. Ah, cavaga. E Mutafuri, Marco è andato a farlo, la guardia del corpo. No, io. A me mi buttano fuori, non è che faccio buttare fuori, mi buttano fuori. Vater, non stai uscendo. No, non stai uscendo. Il microfono, il microfono. Dai un colpo. Dai un colpo così, magari è la capsula inchiodata. Ma ne avrà mille di baracchini. Cattano tutti i microfoni attaccati a una tappeticata, è proprio quello che non esce. Tu li prova tutti a uno, poi quelli che non escono ci li butta in terra. Bene, a 20 anni dovevo fare pulizia lì, meno male se avevo ordinato tutto. No, ma il 90% sicuramente sono tutti efficienti. È che ce ne sono molti che sono fermi da anni, secoli, eccetera, e quindi magari ci hanno andato a pulire, soprattutto i microfoni, capito? E i microfoni, perché le radio sono tutte nuove, sono tutte buone. Sono i microfoni che sono tutti ceppati. E magari anche la polvere, a furia di lasciarli fermi, prendono polvere, basta un granello di polvere del PTT e raschia, fa. Ma lui mi credo che non funziona da giocare al cane. Kappa. E vabbè, già si può divertire, là. Non è da divertirsi. Non esce di radio. Perché sta appassionando di nuovo la KF già. Cavagava. Niente, ne dono io. Te l'ho ritirato ieri. Mamma mia, di nuovo spellato, mi sa. Ma io venditi il DAC, così ti fa un po' di soldi. No, tu manco ciò che era un me lo lui. Non si tocca, ho fatto lo salto mortale, già lo sa. Io ho comprato il TS950 SDX, sempre della Chievo, la radio migliore in assoluto della Chievo, non ne ho fatto altro, dopo quella, fallito tutto. Ai ai ai, che disastro sta radio, cazzo. Non è il direttore della banca, già è mio padrino. Comunque adesso vado sul sito americano, se lo busco un DAC me lo compro. Non so se ce n'è, mi ricordo lavora anche Fabrizio. Ricordi sempre la sigla, il DAC, Mark, c'è scritto DAC, Mark 10, la X è il 40 canali più 40. Il Mark 9 è 23 canali, stai attento. Quindi il Mark 10, quello che c'ha più canali. Andiamo, vediamo un po' quanto lo danno, quanti dollari vogliono. Quindi se stai attento già riesci a giudicarti, ma non si fanno altre. Ultimamente ne ho visto uno Marco, un fatto mi pare che me l'ha detto, 300 dollari. Sono cari, dai. Io mi ricordo, a volte l'aveva pagato sulle 600, mi pare. Quale? DAC. No, io l'ho pagato 620, per una cosa del genere. E beh, adesso non ce ne sono in giro. Adesso, non le compri più, se lo non funziona neanche. È nuovo, non si ancora l'accesso, non c'è. Come si abbassa questo? Va bene così, va bene. K. Eh beh, è tutto satiro. Perché la satira usi quella che ti... questo è da 100 watt, questo baracchino, però se è satiro, è satiro. Ma cazzo, così non è 100 watt, ne avrai 50, quello è una bestia, vedi? Quello è una bestia, insomma, è questo, no? Sì, quello con frequenzimetro, quello da 26 a 30. Cazzo, non bestia quello, c'è un dissipatore allucinante, di sugar. Ma la base? È il colare. È un veicolare già, ma se lo vedi, ha il colore del tunnel più 2 da tavolo, celeste, con frequenzimetro tutto rosso. Ha un dissipatore che è lungo, grande quanto la radio. Beh, sicuramente scalda, se da tutti quei watt. È un apparato invernale, capito? Stavo cercando qualcosa da scaldare i piedi. Se lo porti qua magari mi scaldo. Ma costa un bel lasciar perdere, nel momento in cui non ce la fai. Questo è il costo. Sono le radio che mi scaldano bene. Vabbè, allora so, me ne vado su, perché mi sono tolto le palle. Ne ho provato un bel caffè verde, dicevo, sto mangiando. Si mangia sempre un'insalatina e mezza minerale. E sto fermo. Le cuffie c'hai già? K, non c'è nessuno a casa, sono andato a giocare a tombola qua di fronte. Ma qualche volta quello è l'unica radio che prima la fa scaldare, poi se la porta su e se la mette a mezzo alle balle. E siccome non ce l'ho già la pelle rossa. Ma quanto costa quella radio lì? Non lo so, io l'ho pagata 300 euro, da Carlo Carboni fra l'altro, 350 per le ore, 10 anni fa, non costa niente. Ehi, Carlo, basta lui, presa, mi piace. E giù vai, bella come si fica, come? Bella. Bellissima già, bellissima. Caro Carbone è un vecchio CB, il mitico CH23 di Chiaramonte, per capirci. Sì, sì, sì, me lo ricordo. Cappaga, vabbè. Meglio questo che sento male nel dire che sono andato a casa di un amico, questo qui ha le mani d'oro, costruisce tutto, ai ricotti, li compone, li fa navi, fa... Si è costruito una macchina fotografica a possetto in legno, è funzionante pure. Non si sa, non c'è la macchina per fare soldi, è una macchina da soldi. Mamma mi ha giullato 15 di quelli, come si chiama? Di quelli verdi, 15 di quelli verdi. Ehi, ehi, ehi. Non vedo un bastione. Questo è un mosso, è una radio da 200 watt. Questa è una radio da 200 watt. C'ha 10 bit tutta elettronica, una cosa spettacolare. Molto bella. Questo è il number one della Kimbot. Vabbè, però... Vabbè, non so. Mi sa che seguo il tuo consiglio. Vabbè. Non vedo lo smetter salire, siamo su 10 qua, non su 5. Vabbè, dai, ci sentiamo dopo. Walter, dai, vai a pappare, poi siamo qua. Mangiamo a Bobo, che sei grassetti. Non sono già grasso, sono più grassante, ho già mangiato alle 8, sono un quarto. Sono più grasso adesso. Cosa sei? Oh, ma lo sapevi che ha preso il colpo anche tu ieri, 50? Chi, Vittorio? No, Marco. Da te? Yes, a Itili, di brutto, in diretta, in tata, con 200 watt e 200 watt. No, non esiste più, ormai è morto. vabbè, e oggi se non girava bene la direttiva stava preso il colpo a 10 metri davanti mio. Si è addrizzato, non lo aspettavo, forse ce l'ha appena girata allora, però l'ho sentito che mi ha fatto sentire il bambino che poi mi ha sovramodulato, no? Ha detto mosca, qua c'è l'amplificatore attaccato. Allora sì, allora ma domani lavorativo, domani vai, dimmi, no? Hai trovato pure oggi. Questo quando si fa per la giornata mi telefoni e ne scendiamo con l'antenna da traliccio, capito? Così magari se c'è qualche pezzo di alluminio interessante lo mettiamo a parte per fare qualche altra antenna. Ma da quale traliccio? Da lì? Non devi scendere la cosa, l'antenna delle tue. Puta, da KF devo scendere, il tuo sistema. si abbassa tutto, però l'antenna così mezzo lungo la lasci. No, deve venire Massimiliano, Antonio, mica la passi due. Dobbiamo fare le cose per bene, devo cambiare il rotore, ci vorrà 3 ore di lavoro. Non è semplice, devo attaccare l'antenna di 57 mega, di 4 metri, di 70 mega. Vabbè, come sapete, si bisogna, no? Intanto aspetto ancora 2 settimane perché il vento dice che rinforzerà anche in settimana, e quindi non mi fido a tirare su nuovamente tutto, lascio tutto abbassato perché sennò è un casino, perché sennò non dormo la notte, si abbiglia in culo. Dai, ci sentiamo dopo, già è tutto acceso ancora, faccio due chiacchiere con questi ragazzi monetti. Vabbè. Sì, glielo dai il permesso, Walter. Non è grande il vaccino. Attenzione. Ah, meno male. Cava, cava, cava. Dai, l'ho abbattuta. Avanti, Marco. No, ma non è una battuta già, hai ragione, perché preferisco io parlare sul 10, aspettare sul vintage, perché soprattutto quando c'è Walter, Marco, ci sono io, ci siete voi, è un casino, non si capisce niente, nulla, perché loro devono, cosa devono fare? Devono cambiare i microfoni, attaccarli, quindi si sovramuovono uno con l'altro, è un casino, invece quando c'è la ruota e basta, se uno deve fare prove, fa le prove, 1 o 2 persone massimo, cosa devono fare queste ore? Tutti in pari facendo prove. Ma non è un casino nero. Poi sentivo a te a quella frequenza 27205 punto qualche cosetta, Walter era 206 quasi a 207, KP2 non so neanche l'ovvera, non capivo più l'accidente. E vabbè, già si sopporta tutto, là non c'è problema, io mi adeguo. C'è chi fa le prove, c'è chi modula, è interessante fare tutto in modo ordinato, si può fare tutto. Allora Walter, ci sentiamo dopo se rinzi, se no ti saluto. Avanti, No, ma non c'è Diabolico, è il nome stesso dice tutto. Lui è Diabolico, capito? È Diabolico, poi se non rispondi in casa. Stasera c'era Antonio con Fabrizio o in 40 metri che stavano provando la radio. Quindi io dovevo rispondere in 40, rispondere a 5.25. Quello mi chiamava passa nel vintage, quell'altro in bando laterale a 144.300, Antonio Ritti. Non ci capivo più una minchia. E non è stato di radio, uno cosetta V1 e cosetta V2. Il bello mio è Gianni, che io ce li ho tutti accesi, tutti in frequenze diverse, quindi lo sanno loro, perciò mi chiamavano a destra, mi chiamavano a sinistra, io ho un'antenna per ogni radio, non è che te li accomuntare. L'unico problema era sollevare il volume nel canale 20, perché se tiri il volume alto qui, non è che puoi parlare a 125, ti sentono tutti, non va bene, cioè o facciamo le cose fatte bene o fermo i pellegrini, e quindi dovevo abbassare il volume, rispondere a quello, sollevare il volume di te, tanto stavo diventando come fanno tutti. Ma come fai a seguire tante frequenze insieme? Io non ci riuscivo. Seguo, ma appena due proprio quando poi mi dà fastidio non la spengo. No, io ce li ho tutti accese, c'ho 950 in 20 metri, a 14.220, c'ho, vedi, e tutti accese, con il volume basso, come ve lo segnali sollevo il volume, l'8.50 ce l'ho in 40 metri, il 7.80 ce l'ho a 430-100, il 7.4 ce l'ho a 145-525, il 2.71 ce l'ho a 144-300, c'è il 430 qua nel canale 10, il DAC nel canale 20. Cosa c'è? Il 757 è spento, ecco, l'unica radio è spento. Poi c'ho il computer alle spalle, quindi ogni tanto mi devo girare a vedere il cluster, se c'è qualche country, qualche spot interessante, controllare la frequenza, andare e spostarti con la radio, è un casino, è un lavoro fare Radio Mantova, un lavoro. Cosa ti ha messo? La prolunga nelle braccia per arrivare a quelle fonti. Oh, qua non so, tu sei accanto, ma non ci vedi. Non l'ha completato Giulio, adesso c'ho tutto sotto mano, capito? Ho 2 computer, uno alle spalle, che è il computer normale, quello internet, eccetera. Mentre poi ho il monitor col cluster, quindi un altro computer direttamente collegato sulla parte materiale, e quindi è quello che non è acceso. Ogni volta io entro qua, la prima cosa che faccio è accendo quello, in modo che vedo cosa passa in tutto il mondo, capito? E se no non riesci a lavorare, devo acquistare banda per banda guardando cosa c'è. Guarda il computer, c'è il monitor grande dove sono tutti gli spot che passano, vedete c'è i 20 metri, i 15 metri, i 12, qualcosa in 28, 80 metri, c'è casa cosa, casa branca, che c'è lì. Ah, in 6 metri anche, 6 metri, 50 mega, con Antonio di Monteoro che stavano facendo altre prove. Jack Shaw passa lì che devo fare una prova, non ci capivo più una minchia. Vabbè, ho catturato tutto e lasciato una sola stessa, così almeno si parla in una e basta. Sì. Ma che la diamo a tutti, diciamo, quando tu sei qua possono passare anche loro, non c'è problema. Non abbiamo mai mandato via nessuno. Andiamo avanti adesso con questa cosa del vintage, siamo un po' più presenti tutti, però lì no, o fai prove o parli, capito? Se fai prove, allora iniziamo, non si capisce più niente. Allora chiaramente devi seguire a destra e a sinistra, tu lì. A me il vento, quel vento forte che ha fatto, mi ha sradicato il cornicione, quindi la mantovana, dove c'è la verticale, la X510, delle V e delle U, sradicata completamente, si è rotto un tirante, per salva deve essere sul tubo che non le ha fatto manco, quindi il tubo non ha ceduto. Se si piegava il tubo, vabbè, ne ho altri, avrei cambiato, ma siccome i tubi io sono duri, sono forti, allora ho stracciato completamente la mantovana dove era attaccata la staffa, ho dovuto riabbassare l'antenna, rifare tutto il muretto nuovo, rimettere la staffa dentro, far asciugare, l'ho sollevata ieri, però l'ho sollevata a metà, perché voglio che asciughi bene il muro, una volta asciuga bene il muro la tiro su tutto il telescopico, capito? Invece tra lì c'ho dove ci sono le direttive, quello manco il velo li ha collegato. Ha un po' sgranato la direttiva da nord e l'ha portata leggermente a nord-ovest, ma tu una volta che giri nuovamente se ne mette a posto. Però la verticale l'ha completamente sradicata, ma non è una distrutta, perché è fibra di vetro, capito? E i calcinacci dove sono corsi all'interno? Fortunatamente sì, perché c'è la mantovana, poi ci sono altri 4 metri di terrazzo, capito? Perché la mantovana era mansarda, fortunatamente è roba mia, quindi non ho creato l'anno, se no cazzo il condominio mi mangiava. Un casino, c'è un brasiliano di questa casa lì, e mi sono attaccato i romantici così, sono attaccati al cornicione, dai. Lo so, abbiamo piazzato assieme. Sì, ma mi ricordo, la tua staffa non è un po' 30 cm sotto la mantovana, capito? Tu con quei tiranti che hai, tu ne hai 3, più 3, eccetera, eccetera, mi ricordo che erano messi a metà sotto e a metà sopra. A mia no, perché i pali sono bassi, sono da 4 metri, quindi ce ne ho due, giusto per i 20. Si deve essere attaccato qualche il tirante, o si è rotto addirittura, perché pure l'antenna l'ho trovata collicata e non so se si è staccato il tirante. E tira che ti dira, non è riuscito a piegare il tubo, se piegava il tubo era meglio, non faceva tutto quel casino. E allora ne ha stracciato tutto il muro della mantovana, qualche 30-40 cm di muro ne ha stracciato. Proprio stracciato, c'era una voragine, ho dovuto coprire subito perché se piove entrava l'acqua massata. Cazzarola. Ma adesso la stazione te la devi portare su Mansarda o no? Appena già ci sono per finire, appena riesco a terminare, spero quest'anno nuovo, per volta e via, quando vuoi li paghi e poi smetti, poi riprendi dopo, cosa devi fare? Se non ce la fai tutta una volta o chiedi la finanziaria e te la paghi piano piano oppure fai così. Questa finanziaria mi ha attenti già, se succede qualcosa, fatto che ci vogliono, la portano via, no? Aspetto piano piano, ho fatto portare l'acqua praticamente, c'è su, l'acqua, la colonna montante, tutto lo scarico del bagno, praticamente c'è da tramezzare, fare il soppalco per fare la stanza da letto sopra, perché faccio tutto il giorno, capito? Faccio un'unica stanza da letto, però il soppalco e la struttura del soppalco con la scava in legno al giorno, cazzo, ci vogliono 8.000 euro. Vabbè. Diciamo che sono spese grosse, bisogna stare attenti, questo periodo è un casino, mettersi i debiti è un casino. Prima magari era più facile pagare le cose, sempre via via e via, ma adesso cazzo non sa mai, da un momento all'altro non sta mai tranquillo. No, no, già, hai detto bene, non è il momento, anche perché io adesso da gennaio passo direttamente all'ufficio tecnico, che ne hanno messo nella direzione da voi, quindi spero, come hanno detto, siamo accordati per avere qualche soldo in più. Voglio risparmiare, basta, è finita. Porta che ti ha preso, ho preso lì a Coso, a Portobello. Tre più una piccolina. Le finestre della mansarda sono già tutte in alluminio, con i vetri, anche sfondamento, eccetera, quello è già tutto fatto. Capito? E porta che ha preso una fesseria. Neanche 300 euro, tutte e tre. Sono già sopra con i telai pronti, capito? Roba, non so se sequestrata, se comunque non li ha portato bene. Noce, tipo queste che ci vivo a casa, sono già lì. Altre cose le ho già prese. C'è già il salotto sopra, coperto, lo stesso l'avevo preso a seconda mano, nuovo nuovo, da un amico, insomma. Ci sono mobili che c'erano qua di Messucci, però veramente non è un problema. Il problema è finire tutto, è già pavimentato tutto, c'è da fare i tre mesi, l'impianto elettrico è già fatto, c'è la luce, c'è l'acqua, c'è tutto. Non avevo un montone di acqua, quello che è il soppalco, ho visto anche Giulio, no, il soppalco è la struttura del soppalco. Vuole fatta bene, quindi ci vuole un sacco di soldi, anche perché bisogna quantificare il peso prima che ci scenda in camera da letto di quella di sotto. Vabbè, ma tu cosa intenzione di fare, di un appartamentino oppure farti una zona tua, diciamo, per fare le rimita con le radio? Non lo so, non ce la devo decidere, non faccio le rimita perché qua sto bene, io c'ho 18 metri quadri di stanza, 6x3, 6 metri per 3, sto benissimo, non posso allungare ancora, non ve l'ho pescato nessuno, però sono a contatto, capito? Se bisogna decidere, se finisco per andare a abitarci, me ne salgo su, ce ne saliamo su, diciamo, qua ci sta mia figlia, quel ragazzo, non so. Tutto va a vedere già, tutto va a vedere, anche perché l'ascensore arriva sino alla porta, quindi non ci sono problemi, non è che salgo a piedi, però dobbiamo vedere, di chi mi chiede un carico da morirmi, non è cosa scherzare, sei sotto il tetto. Adesso c'è caldo, di vero c'è freddo, perché essendo sotto il tetto ho preso tutte le intemperie. E poi il fatto che tu ti stacchi per andare alle radio, non stai mai con la famiglia, è un casino, secondo me io la vedo così, non hai contatti con gli altri, è brutto, ti devi stare sempre lassù, anch'io. Non so, lo faccio metà, faccio come fa il Walter, un pezzo sopra, uno sopra, quando c'è a combattere, lui scende sotto e salgo sopra, capito? Ma ci sono lavori anche. capire, così. Vediamo, adesso devo montare un'altra direttiva, una moto dei tre elementi, forse quella sia una volta buona, ci porto su una radio a 220, questa è 220, quella che ho preso, quindi collego l'antenna e lì si combatte, almeno non ti sente nessuno, puoi fare quello che ti piace, qua se non a una certa ora puoi fare casino, poi l'altra notte eravamo fino a mezzanotte, alla fine ho dovuto mollare perché mia figlia è già collegata, mia moglie è già collegata, mi ha già botte. Vabbè, vabbè. Non so che ti toccare lo muso, ma casino. No, come? Oh, più casino di quello che facevo sino alle 3 del mattino col barattino, via. No, ma no, sotto c'è la Gaetana. Sopra, poi in questa stanza sono stanze in più. Per esempio quello di sotto, in questa stanza c'è la botta, perché sono in due e non hanno figli. Quello di sopra è grande quanto è questa, quindi sono tre stanze da letto, c'è un figlio solo, e nell'altra stanza e questa è vuota, quindi sono anche cannoso. Qui sono lato, sono esterno, io nel giardino, capito? Invece nell'altra, quando ero nono piano ero proprio al centro, mi sentivano tutti, anche nelle scale mi sentivo, io sempre a volte quando mi vedeva, ma c'avevi via a voce, io a voce, ma dite, sentivo voce alle 10 e mezza di notte, le 11, a me, ah, a baracchino era a voce. Però qua c'è, diciamo, è attivo proprio la stanza dentro dell'altro che abita nell'altro palazzo. E la notte sentite il burro quando russa, non si può dormire dalla russata che c'ha, fare un coso molto piccolo. E uno ce n'era sopra, quando era un piano, la camera da letto aveva proprio sulla parete sua, si chiudeva sopra il vento, ma di più, a Mazzanini ci gaggava il burro. Emanava i gas di scarica. Hai visto il produttore, se il sindaco che ha ordinanza di non sparare coso petardi, roba del genere a Capodanno. Tu mi dai cosa c'entra? Perché uno su Facebook ha scritto, ma quali petardi? Con i soldi che ci sono possiamo sparare solo dal buco del sedere. Va bene, mi ha scherzato, che ho preso, fatta il cugino, la mamma è Beniamina, se vuoi mamma, vabbè, io avrei vietato comunque questa cosa, perché è molto pericoloso, perché a Caserta, a Salento, a Napoli, se già uno gli manca un dito, l'altro gli manca un braccio, l'altro gli manca la mano, a cosa serve, cioè farti male, per fare che cosa? Cosa stai facendo? Stai facendo una cagata, cioè cosa stai facendo? Stai facendo muore, boh, capito? Non serve a niente. Fai giocare il bambino, che si bombetti, i buoni chivi, l'abbiato, o fai i fuochi d'artificio, qualcosa. Cazzo, ma a Napoli è una cosa esagerata. Il genero di mio fratello è Antonello, è quello di Arelai, no? È il goffo, Arelai, che è il bocco di gaggati di aziende. E dice, l'hanno lasciato a Napoli, ma detto, cazzo, frate mio, una cosa allucinante. Non potevi stare, dovevi stare dentro casa con gli avvolgibili abbassati, perché se uscivi fuori ti tagliavano la testa. Ti passavano, ma no, per tardi, cazzo, Mariani, bombi, nella strada. Un casino di Gesù Cristo, si ammazzano con queste cose, si ammazzano proprio, si uccidono e non serve a nulla, capito? Avanti Marco. Sì, e poi si vede, come diceva Passaglia, il 2 gennaio dice, a Napoli per i botti di Capodanno, 3 morti e 300 feriti. Io non li escludo queste cose, perché diciamo la festa bisogna farla, ma a Napoli sono stati sempre esagerati, perché mondo è mondo, a Napoli hanno sempre fatto delle bombe, delle mini bombe, non di petardi, Maradona, Zico, lì sono tutti pericolosi, sono tutti mini bombe, le fanno piene di polvere da sparo. A Napoli hanno fatto Pablì, sito, non so cosa, ma chissà se era qualche bomba di quelle ad alto potenziale. Ma Napoli, quando ero in Sicilia, sono andato a trovare mia sorella quando abitava lì, eravamo barricati in casa, perché lì non sparano in alto con le bombe, lì sparano con le luppare, con i fucili. La mattina c'era tutto il poggiolo pieno di pallini, e erano tutti buoni pure, no? Avere un gapolano. Assassini, non so, passoni che vogliono festeggiare, perché se uno vuole festeggiare spara a salve, non spara cose pericolose. Io per dire, c'è la pistola a scacciacane, sparo con quella, però sparo dentro il terrazzo che c'è la veranda, la lascio semiaperta la veranda, sparo all'interno di modo che i bussoli cadano dentro e non c'è nessun problema. Certo che sì, è certo che sì, la pistola lanciarrase, ti ricordi? Cavi, travinaia, un raso e via. No, in Sicilia spara proprio per l'uomo, capi? Puntano alle bugioni e ti faccia ne canto bene. Infatti hai detto bene, quelli sono assassini. Assassini! Attualmente che tu filmi, Marco, di Bombolo? Assassini! No, al momento no. Comunque vabbè, cioè, io ho sempre sparato, ma ho sparato cose legali, tipo quei petardi, i magnum, quelli rossi, lunghi quanto un dito, c'è solo un grammo di polvere, fa un botto, modesto, ma tutto lì. Ma Napoli sono matti, cioè ti pigliano le bombole del gas e le riempiono di polvere da sparo, mi colma, poi ci mettono una miccia, e ti puoi immaginare. Il magno mi ha fatto saltare un tombino della fogna, una volta l'ha buttato in mezzo all'acqua ed è esploso anche nell'acqua e l'ha fatto saltare fuori il tombino e ha schizzato a tutti. Ma già, non è il magnum che dico io. Allora ti spiego, quelli che vendono anche nelle cartolerie sono i magnum, li accendi con gli svedesi, li butti a terra, ma quelli hanno un grammo di polvere, cioè la massa esplodente è un grammo di polvere. Invece ci sono i Cobra 6, gli Explode, già il nome è una garanzia, che sono a forma di candelotto, ma hanno 40 grammi di polvere, non so se mi spiego, sono bombe, 40 grammi, c'è una bomba, se tu lo metti sotto la macchina di uno, in corrispondenza del serbatoio della benzina, io dico che salta in aria. Sì, ha fatto saltare, una volta l'abbiamo fatta al season per vedere la potenza che ci aveva, abbiamo fatto un capodanno lì e l'abbiamo provato, abbiamo messo nel tombino della fogna, quelle dell'acqua là, quelle grate. Cazzo, l'ha fatta saltare, mica sono incastrate quelle grate, sono ben incastrate, se non stai a farmi tutto il circondato, ma per toglierle non ce la fai, eppure l'ha fatta brincare. Vuol dire che era forte per aver fatto saltare il tombino. Comunque anch'io sì, sparo spesso a salve con la Bruni, c'ho calibro 8, calibro 380, calibro 320, calibro 22 lungo, calibro 6 piccolo, e poi chi più ne ha più ne metta, questi sono quelli che mi ricordo, sempre a salve sono. Ma non ce l'hanno per lunga come ce l'ho io. No, allora, la 9 lunga come ce l'hai tu ne ho 3, ho la Valtro, poi ho la Bruni calibro 9 e la Bruni calibro 8 sempre a salve. Allora, la calibro 8 Bruni è a raffica addirittura. Calibro 8 a raffica. Sì, già, appena ti... No, basta le voci, sono al baracchino, mi. Ho detto, la Bruni, come la tua, però è calibrotto di arraffica, puoi sparare sia normale che arraffica. È uno spettacolo il 31 di notte. E non si dice, ma con quante pistole spari, quante manicciate? No, sai come, invece di ricaricare, come si scarica una, usi l'altra, no? Una, ecco. Ma io non si crede che le regali molto al cielo di fumo, io ne sparo 5 colpi e via. No, 5 colpi sono in un secondo. Ma tanto a mezzanotte finisce in fretta, sparo a mezzanotte in punto, 5 colpi e via, fatelo io. Vabbè, così poco no. No, io mi stavo chiedendo invece, a Porto Torres, no? Il sindaco ha dato l'ordinanza da poco. E se c'è qualcuno che si è comprato una Santa Barbara da utilizzare, cosa se ne fa adesso che il sindaco ha detto di non usarli? Ha messo l'ordinanza di non usare né botti né cos'è nei luoghi pubblici. Luoghi pubblici si intende di città, perché dice che offendono il cittadino, lo spaventano e movimentano la quiete pubblica. Ma ho letto alcuni commenti sulla Nuova Sardegna provenienti da Facebook, mi hanno detto di tutti i colori. Vabbè, sì, e quindi uno in privato sulla propria terrazza o del terrazzino o in un cortile interno li può usare, quindi non ha risolto niente alla fine. Non è un luogo pubblico, certo, è un luogo privato. Poi ha detto che lo fanno per gli animali da compagnia, perché si spaventa i cani. Infatti se c'è il vicino che già ha due cani, uno da caccia e uno piccolo, a mezzanotte li faccio cagare addosso ogni anno. I cani non sono niente. Un anno mio cognato doveva venire qui il 24, no, il giorno di Capodanno, hanno sparato, hanno fatto scappare i vitelli, è stato ricorrere i vitelli due giorni, più andavi vicino più scappava, erano spaventati dagli spari e si è fatto tutta la nulla presso i vitelli. Mio fratello è diventato sordo, adesso è morto, un paio anni fa, era sordo, belle tardi. E io mi ricordo quando ero piccolo che c'erano quelli involti con la carta a straccia e un pezzo di spago, tu li buttavi in terra e scoppiava, faceva un'esplosione allucinante. Una volta che l'ho tirato vicino a questa ragazza e gli ha rotto tutte le calze, le ha sbagliato. Il sordo è diventato sordo, dodo si chiamava, sordo. Sordo, non ci sentiva un cazzo, tu lo chiamavi e Marco si girava, niente, sordo. Il veterinario ha detto che era dai pentati, ne scoppio i pentati, perché lì lui abita quelle case che ci sono scendendo da Sassi a Rotto, cioè anche nel pediatri, con quella schiera che ci sono sulla destra entrando. Vita lì. E quindi siamo tutti i giardini, organizzavano il cane sempre nel poggiolo, organizzavano, capito? Tutti i vitti gaggati, pettati, botti e controbotti, perché hanno diventato sciolto. E sono spari forti, anche quelle delle pistole sono molto forti, infatti allontano sempre il bambino quando faccio queste cose. Sono molto forti i boatti. Io ho una 9 lunga, però è da poligono, uso sportivo, non so se neanche se ne ho più di quella che l'ho controllata, è sempre conservata perché non la sto usando, non sono più andato a poligono, prima di avere passato, andavo ogni fine settimana con Franco, non siamo più andati, mentre Franco c'è delle pistole da sempre da poligono. Sono romano toccato, oh, quest'anno mi stanno mettendo un po' così Marco, dare due colpi, dato strada però siamo qua, il mamma troppo nella scena di posteggio della macchina, capito? Il mamma un bel, invece la strada, cioè ci sono gli alberi, non si vede, quindi guardo i scingardi e ti metto il vento. L'hai fatto, ho finito. L'anno scorso abbiamo fatto tutto l'anno qua, avevamo una ventina. Tutti ci ho voluto imparare, osso che hai aggiunto quella buca, vuoi guardare io, non fate quelle domande. Perché meno male ce ne sono anche nella strada, se no guai. Fuochi d'artificio, bombe a mano, di tutto hanno fatto un casino di Gesù lì. Perché hanno detto, no? Ma che non facciamo? No, è un casino, me ne hanno detto, fa casino, io devo lavorare il primo. Hanno detto, quindi è un casino, allora vieni tu da noi, io vengo e a mezzanotte un quarto me ne vado. Si abbigliano il culo. Io non ho partecipato a casa di questi amici, la stampica ha messo a disposizione la casa e un paio erano un po' stravaganti, hanno dichiuso Ampulli, Rubaccoli e cosa, e Michieri. Perciò ci ha pigliato in una mazza, scusi. E cazzo il vecchio anno, bisogna buttare la roba vecchia, questo è quell'altro, piatti, hanno dichiuso tutto quanto. Io quando ero mortificato, aveva la faccia in terra. No, così non va bene. È a fare danno, anche perché ci sono macchine, acqua e scherzando. Marco, ma le tue sono salve le pistole, non è come la mia è vera, La mia era una 9 lunga, quella che hanno i carabinieri, uguale a quella precisa. mappa, sì, la tua dovrebbe essere calibro civile, quindi 9x21. Oh. Queste sono a salve, ecco. Vari calibri, 8, 9, poi i revolver sono 38, sarebbe 380 e 320. Poi quelle piccoline calibro 6 che non fanno testo quelle. Vabbè, aspetta che c'è mamma che sta parlando, non mi sento, sono in cuffia, non sto capendo niente di quello che dico. Mamma che urla da una parte, le cuffie che mi tamponano. Allora, sì, tutta salve Claudio, io ho solo aria compressa e me ne sono anche stufato, capito? Allora ti spiego, al poligono io sono andato tanto tempo fa a chiedere tutta la documentazione per andare a tirar segno. Prendo tutta la documentazione, ho fatto il conto, 100 qua, 50 là, bolli, carte, antimafia, e alla fine ho mollato. Io sono andato al poligono 3 volte nell'arco di questi 25 anni a chiedere i documenti per fare il tirassegno. Poi mi sono fatto i conti in tasca, ho visto che non mi conveniva, perché si deve affittare le cartucce, deve pagare le cartucce, la linea di tiro, il bersaglio, tutto il resto, capito? Alla fine mi costa troppo come hobby, meglio il baracchino. No, andiamo a una settimana con Franco, io glielo so questo. No, c'è anche Franco, cioè io ci ho portato l'arma a uso sportivo, e boh, non posso portare nessuna parte, ho visto da casa dal poligono a casa, perché non la trovano in giro, mi arrestano, ammazzo. No, infatti conservata, c'è una cassaforte dentro, conservata nella sua custodia, no, non tocca nessuno, che ce l'ho io nascosto, non è neanche combinazione, è chiave, quindi ce l'ho io nascosto. Sto dicendo, non fa, le cartucce sono costose, è un casino, infatti ci stanno per quello, già le radio, le antenne, lo poligono, e ci mi ha fatto buon in culo da Giovanni Mappioli, avanti già. E la pistola quanto costa, ecco? Ah, la pistola le aveva prese veramente tutte e due uguali, c'ero io e Franco, la Pasquali. Non credo che costi molto comunque, non credo, perché non ti dico una balla, ma non mi ricordo quanto l'avevo, perché gli avevo dato a Franco 200 euro e mi aveva tornato anche, oppure avevamo fatto conto a cartucce, comunque non più di 200 euro, insomma, una cosa del genere. Ah, quindi non molto costosa. E si inceppava? No. Ho pulito anche da poco, perché anche faccio smontare, sai, una carrella, la smonti, la pulisci, c'ho olio, un apparato pasquale, tutto nella custodia, per lubrificare, eccetera. No, non mi c'è l'ho usata quando ero stato 2 anni e mezzo per Pasqua, neanche 3 anni. Ci saremmo andati una decina di volte con Franco, poi ci avevamo le moto, quindi sabato ci avevamo rotti le palle e uscivamo in moto, il sabato e la domenica, allora domenica è chiuso qui, però il sabato quando eravamo liberi uscivamo in moto, quindi avevamo abbandonato tutto, ma lui ne ha 2 o 3 bellissime, molto molto bella, c'è la 9 corta, 9 lunga, c'è una brown, non so come si chiama, una di quelle bellissime, molto bella. Browning. Io già sono, mi piacciono molto a me le armi. Mi piacciono molto, è peccato che non c'ho una campagna, se non aver preso una carabina di precisione di quelle col cannocchiale. Anche quella c'è, quella si è comprata mi pare due anni fa, prima di separarsi, 2 o 3 anni fa, se mi ricordo. Infatti avevo iato una moglie per questo cazzo di storia delle armi, che non le voleva a casa. Sono belle, Franco, c'è una bella collezione di quelle roba lì. Sono tutte vere, ma l'unica è la carabina. La carabina è l'aria compressa, ma cazzo ci fa certe fucilate allucinanti. Siete fucilate allucinanti, bella veramente. Le pistole sono vere, tutte vere. Lui carica la dice Marco Scurti, lo stesso che c'era arrivato a segno, molto bravo, non sono dopo che è diventato campione sardo il tiro a segno. Comunque lo fa il poligono di campanella, mi pare. È lì. Sì, c'è il tiro al volo, mi pare. Sì, esatto, tiro al volo, sì, piattelli. Marco c'ha belle armi lo stesso. Mi è andato, non so se ieri o venerdì, se non fatto campionato saldo, è entrato primo assoluto, molto bravo. E io l'ho vista, sono prima Roma. Ero un bravino, già facevamo un sacco di punti. Allora se mi sbaglio mi posso imparare solo le balle. E vabbè. Fai come il ragioniere Cecchini di Fantozzi. Fini. Ah, Fini. Ma la scelgo, Baro Cecchini. Scelgo proprio, una talpa. Che aveva sparato, non mi ricordo a chi, cazzo. Ha sparato un tiro, buh, mi ha dato un abbasso. Vabbè, quello. I film sono film. No, io l'unica cosa vorrei fare è appostarmi su, adesso cambiando, ma sempre in fase di appostarmi su e sparare le cornacchie. Adesso l'ultima giornata di caccia, che dovrebbe essere il 31 gennaio, poi danno una settimana per sparare a colombacce, tordi e cornacchie. Cazzo, già mi diverso un po'. Tu immaginati che da quando ho montato le direttive, Gianni, è la terza volta che mi mangiano la scatola del balum, no? Dove si attacca il piede, che è di plastica. Me la morsicano tutta e mi fanno il buco e entra l'acqua, perché quella è sigillata, dentro c'è, ci sono i collegamenti dei fili e lei ce l'attacca il piede. Tutte le volte è già la terza volta che salgo a siliconarla. Cazzo, ma come le trovo le ammazzo. Claudio, tu devi vedere quei cavi che ci sono sulla sosta di Bidriassi. Ti fanno il buco dopo che te la morsicano. Ma pieno, tutti i cavi completi, pieni di cornacchi sopra. E poi come erano i campi, si va la maglia. Ti si riempie d'acqua qua, no? Sì. Ma pieno. Una volta si sono il volo e vanno impiegati tutta la macchina dei massaggi. Pulito anche da poco, sì. Pulito da poco, chi è che vuole entrare? Avanti che vuole entrare, sento un fischio, chi è? All'aria compressa, Claudio, che non vede, non sente nessuno almeno. Non è una cosa allucinante. Poi con tutte le antenne che ci sono, vanno proprio sull'ultima che ha montato, che è proprio in alto, e si siedono lì sopra il radiale e si mettono a beccare questa scatola di plastica che c'è. L'altro giorno di nuovo bucata, ho passato l'antenna, l'ho siliconata, penso, spero non si mangino silicone, ma io mi induca, un casino, non basta il vento come sta dicendo tutto, anche le cornacchie ci vogliono. Vediamo se c'è Antonio Grobbe che ha detto che entrava. Grobbe! Crode in ascolto, buonasera, a quelli belli e a quelli brutti. Anton, così non hai problemi, antenna in basso, la 300 in alto, non la toccano perché non viene male, che è tosta la fibra. Ma tu non ci credi, allucinante, vanno sempre lì a morsicare con la scatoletta. Guerra del filo. Oh, scatola di quelli in plastica dove c'è l'attacco, esce il PL e i fili sono collegati lì dentro, no, una scatola di derivazione, qualcosa del genere, non so. È già la terza volta che c'è la buca, no? Col becco mio. Sì, ma dico, si attaccano anche a tutto, si attaccano anche al calcio. Buonasera, signor Grodino. Buonasera Gianni, buonasera. E allora, i tesicontas, feste di io, non ce n'è che. Roba mala, compare. Mi parse di sentire anche un'altra voce, non ho capito la modulazione, però chi era? È Condo. Sì? Condo, Marco Condo. Ciao Marco Condo. Da oggi Marco Condom. Lo ho detto di preservativo. Sì. Oia, hai vedi, ha chiamato, non c'è lui, quindi... Che però... Tu c'è la punta corta, cazzo. Non è detto. Ah, non è detto. Allora, va bene. Non avendo ricevuto il saluto di ritorno, mi sento... come si può dire, sollevato la prossima volta di salutarlo. Ma io a tu? No, che non ci ho... stavamo facendo battute, non ci ho pensato. Ho capito, non è ancora arrivato il saluto di ritorno. Ciao Antonio. Ho detto, non ho le palle piene di sentirti oggi. Buonasera Marco, buonasera, buonasera a tutti. Buonasera carissimo, buonasera. Come stai? Ti sei pettinato oggi? Io mi sento sollevato a volte perché in questo mondo di malfattori, meno male ci sono le persone come voi, meno male ci sono le persone come voi che in qualche modo risollevano quella che è la condizione dell'essere umano. Stai rivitando Antonio. Allora, cazzo dice, o niente? No, sto dicendo la verità. In questo mondo di malfattori, di persone false, di persone poco corrette, di persone fatte in ogni modo, meno male ci sono persone come voi, invece, schiette, sincere e reali. Ma se vuoi gusto e Ma non è del tutto vero, perché come tu sai ci sono quelle liberalizzate di cui è permesso il trasporto da casa tua a una destinazione e viceversa. Esatto, e tu hai detto giusto, non è del tutto vero, nel senso che è liberalizzata la vendita, liberalizzato il trasporto, ma non è liberalizzato l'uso fuori dalla norma, nel senso fuori dalla norma non vuol dire che ti puoi mettere a sparare per strada, cosa ne dici? Marco, ragione Antonio, perché io te l'ho detto, io ho il permesso, il programma di guida sportivo per trasportarla da qua al poligono, dal poligono a qua, mica posso uscire per strada e mettermi a sparare, se devo sparare mi devo nascondere. Beh, quello era ovvio, io ho sempre sparato sul terreno privato, con tanto di muretto, certo non per strada, io chi ha mai detto che ho sparato per strada? Esatto, ma da come è impostata la cosa? Sembrava che li volessi abbattere tirandoli ad aria compressa. Fra l'altro cosa succede? Quella carabina che tu hai, che dovrebbe essere sotto i 7 joule, se te la dovessero prendere, portare al poligono di tiro e testare quanti joule ha e scoprire che non è rimasta normale, sono, come si dice in francese, sono gatti. Ma io so tutto quello che stai dicendo, però questa è una Gamo 400 che a differenza della Diana non so perché non è modificabile. Gamo 400 ce l'ho anch'io, non è vero neanche quello. È modificabile, vabbè, io non ho intenzione di modificarla, tanto va, per quello che costa va bene già così, se che ti stanchi alla fine. Gamo 400 vanno in, arrivano a 7 joule perché hanno un buco di depressurizzazione sul pistone di mandata di compressione, nel momento in cui tu quel buco lo tappi, gli cambi la molla. Oh, a me Pasquale ha detto che non si potevano modificare, poi magari ha detto balle. Pasquale deve vendere sci, deve vendere racchette per andare a giocare a tennis e basta. È molto caro anche, perché Claudio, il fucile che ha preso Ivan per baracellare, lui l'ha pagato poco, tipo 200 euro. C'era lo stesso fucile, la Pasquale costava non so se il doppio o più del doppio, lo stesso è marca modello. Sto dicendo, è carissimo, io se mi ricordo esattamente perché le pistole erano prese a franco più di uguali e costavano abbastanza, poi non so se ha fatto lo sconto a franco, non so, però abbastanza caro. Primo 1, 2, 3 già spente. Dai, signori, io vi saluto, domani me lo stare presto, faccio due chiacchiere qua con la famiglia e poi me lo vado a mamma, sono tutta la sera buttato qua dentro, quindi ho fatto di tutto, 3x9, 6x9, 7x9, di tutto e di più. Ciao Gianni, ciao Antonio e ciao Marco e chiunque fosse in ascolto. Buonanotte a tutti, passo in QRD, avanti già. Va bene, ci sentiamo, buonanotte e buon lavoro per domani, avanti Marco. Ciao Claudio, alle prossime, buonanotte, avanti Antonio. Ehi Claudio, incubi, incubi, tanti incubi. A Roma penso io vado giù, certo che sono romano, non so che cosa ci sia di importante nel lavoro, perché questa settimana praticamente ci mancava metà del personale, ma domani rientriamo tutti, quindi vediamo cosa abbiamo fatto. Buonanotte a tutti, alle prossime, a domani a tutti. Ciao, bello bene, ci sentiamo domani, buonanotte. Che fai, Antonio, che fai? No, io oggi sono abbastanza caustico, quindi rimango, secondo come rimango in ascolto, sento te. E il piacevole Marco Condor. Io poco l'ascoltati, cioè io sto per andarmene a letto, anzi, adesso che c'è il microfono in mano, approfitto, me ne vado, che domani è un giorno duro, lunedì è proprio sempre più duro. Allora, ragazzi, buonanotte a tutti, ci sentiamo. Vabbè, ciao Gianni, ci sentiamo allora. Alla prossima, avanti Antonio. Io, ciao Gianni, buon 144 e ci sentiamo domani se coincide. Marco Condor, altri due minuti ti do e dopodiché ti concedo altri due minuti, dopodiché chiudiamo. No, Claudio diceva che ci sono le connacchie che li rovinano la cassetta, ha detto tirali all'aria compressa, poi l'importante è non farci vedere. Ricordati Antonio che le leggi sono fatte per essere infrante, se no che ci sanno fare? Ascolta Marco, però te lo voglio dire come da fratello, hai perfettamente ragione su quello che dici, però una cosa è farlo e vantarcene, una cosa è farlo e stare zitti, c'è una differenza. Lo so, c'è gente di Alghero che li fa i reati e se ne vanta, infatti li beccano subito. Tipo mi sta arrivando Maria sta arrivando, poi puntualmente li controllano apposta e arriva Maria, arrivano anche le manette. Vabbè, comunque che tu sappia, se non è cambiato tutto, è davvero che l'arma di libera vendita, no arma, le carabine di libera vendita si possono trasportare chiuse, messe nel cofano, scariche eccetera eccetera. Perché ci sarebbe un baracello, amico di un baracello, che secondo lui dice noi denunciamo, capito? Denunciano a priori, che la legge ti dica che la puoi trasportare o no, loro denunciano a priori. Io gli stavo per dire di andare lì a quel paese, ma mi è venuto il dubbio a quel punto. Allora, regola numero uno, mai dare retta ai baracelli, perché sono le persone più ignoranti di questo mondo, benché sia un corpo più antico dei carabinieri stessi. Baracelli è mutuato dalla parola barracello, che significa chiudi cancello, perché erano le persone che si occupavano nell'antichità, proprio perché ti sto dicendo che è un corpo molto più attempato dei carabinieri, di chiudere i cancelli onde evitare che si potessero denunciare o comunque potessero iniziare, diciamo, degli iscritti e degli scontri fra i pastori, perché magari si potevano denunciare per furto di bestiame. Quindi andavano a chiudere i cancelli, non avevano altra competenza. Diciamo che l'anello di congiunzione qua in Sardegna fra quello che è lo Stato, quindi i carabinieri, il corpo di carabinieri della polizia, e i pastori e le persone del posto, perché il 90% comunque baracelli, anzi buona parte di questi qua, guarda caso, sono cacciatori di frodo o comunque persone che hanno avuto problemi con la legge. Detto questo dico, mai, se ti dovessero trovare con un'arma, a prescindere che tu abbia, sia in regola o non lo sia, mai consegnarla a un baracello, sempre chiedi l'ausilio dei carabinieri, dopo se ne può parlare. Quando viene un carabinieri gli puoi dare quello che vuole, ma i baracelli la verità. Ehi, vabbè, questo va al poligono, eccetera. È convinto che sia così. Io gli volevo portare l'articolo di legge da sbattergli a faccia, ma lui dice che è così e basta, noi denunciamo. A questo punto come si chiama quel reato che si configura quando qualcuno ti, per esempio, ti denuncia per una cosa falsa, per una cosa, per un reato inesistente, come si chiama? Falso ideologico, abuso di potere o come? Due possono essere, o abuso di potere o falso in atto d'ufficio. No, perché è successa una cosa a una persona, vabbè, che non sto a dire qua, li hanno beccati i carabinieri con l'arma depotenziata, libera vendita, che quello vuoi dire, aria compressa, più o meno la stessa che abbiamo noi. Allora, gli hanno fatto il sequestro del veicolo, sequestro dell'arma o come lo vuoi chiamare, e li volevano denunciare per porto abusivo. Lui ci è tornato il giorno dopo con gli avvocati a dire io vi sto denunciando e vi dico anche perché. E allora si sono cagati, i carabinieri si sono cagati, si sono accorti della stronzata, infatti gli hanno restituito arma, macchine e tutto con le scuse pure. Veramente devi girare con un certificato che ti rilasciano dove l'arma è depotenziata, se non loro in forma cancellativa pistola te la possono comunque sequestrare, dopodiché dovrei andare a dimostrare in caserma che questa non è. Fatto sta che devi anche dimostrare il motivo per cui ti stai girando con un coso, con un'arma, perché è sempre un'arma, non è un giocattolo, perché è un'arma all'interno del cofano della macchina, e al pari di se dovessero trovare me che sbuccio le castagne con un coltellino e un ragazzino o un ragazzo in piazza con lo stesso coltello senza motivazione ad essere. Certo, certo, naturalmente, puoi trasportare, certo se vai, che ne so, a una festa di piazza con quelle macchine capaci di fare storie, no, ti devono fare storie, non capaci. Vabbè, è bello vedere che certe persone, tipo questi corpi, corpuccoli, come definisco io, siano tanto convinti delle loro fandoni. Vabbè, è bello che ha ragione lui, alza la voce, ha ragione lui. Tanto veloce. E io mi senti? E io. No, mi stava dando una notizia a Walter in canale Monitor, mi sta dicendo che Michael Schumacher è in fin di vita perché sciando ha sbarcato la testa e ha colpito a morire. Sul serio? Così mi ha detto. Il cacchio. Non si è ammazzato in Formula 1 e si sta ammazzando con i sci. Peccato. Veramente, vabbè. Anche se non è più in Ferrari, non mi è mai stato simpatico, però già non merita questo, solo per questo. Va bene Marco, io ti ringrazio per il piccolo QSO, ti auguro una buona notte e ci sentiamo alle prossime. Ciao Antonio, buonanotte. Alle prossime. A te, buonanotte, ciao.